È con noi Alberto Prunetti, autore del romanzo 108 metri, che sarà a Roma, a Scoop, il prossimo 10 maggio, insieme a Marta Fana con il suo libro Non è lavoro, è sfruttamento. Alberto, ben trovato. Grazie, grazie a voi. Sì, Intanto lo descriviamo brevemente, questo tuo libro. è una storia di un viaggio di un proletario laureato che, trovando solo lavoracci in Italia, dopo aver fatto l'ultima stagione estiva nella pizzeria, se ne va nell'isola del tesoro in Gran Bretagna, dove secondo mitici racconti di cervelli in fuga ci sono risorse e sorti progressive per i poveracci italiani, e si ritrova in realtà sprofondato dai tavolini dei centri commerciali a pulire alle latrine, e rimbalza fra una pizzeria, una latrina, un centro vacanze dove fa il kitchen assistant con una ciurma di sguatteri semi dediti a piccoli crimini, diciamo, che sembrano usciti dal riffraff, e sostanzialmente cerca di guadagnarsi il pane e di trovare dei soci, dei colleghi, dei compagni soprattutto. E troverà tante delusioni e incontrerà il fantasma della Thatcher, che tanti anni dopo quel fatidico sciopero dei minatori continua ancora a perseguitare la leggendaria working class inglese. Alberto, come nasce questo tuo nuovo lavoro? Nasce da un'esperienza biografica personale ormai un po' lontana nel tempo, diciamo di tanti anni fa, di emigrazione, che non fu certo una fuga dei cervelli, perché veramente finii a fare lavori sporchi e mal pagati, o perlomeno pagati al minimum wage, cioè al salario minimo sindacale inglese. E dopo amianto avevo iniziato una riflessione sul lavoro, in cui avevo raccontato la vecchia working class italiana, la classe operaia in tuta blu, quella di mio padre, che faceva soldatore e carpentiere in ferro, mezzotrasportista e mezzotaria, e si era ammalato per una malattia spesso correlata. E era il momento di raccontare la generazione successiva, quella appunto di mia e anche di chi più giovane di me è costretto dai magri e più che altro dai precarissimi contratti italiani a cercarsi un'alternativa all'estero, soprattutto che sia a Londra o a Berlino, e si sente un po' vilipeso da questa narrazione giornalistica che parla di cervelli in fuga, quando in realtà, come dice benissimo in un suo articolo e poi anche nel suo libro Marta Fana, hanno fatto di noi i camerieri d'Europa. Ecco, sottoscrivo pienamente queste parole di Marta Fana. Siamo diventati i lavoratori della ristorazione più diffusi nelle cucine del Regno Unito o di Berlino o Barcellona, ecco. Senti Alberto, ci siamo conosciuti a un red reading di Tamara Bartolini e Michele Baronio, che ha fatto un'opera drammaturgica di combinazione tra questo tuo lavoro e il precedente, appunto, Amianto, rendendolo anche molto omogeneo. Ecco, volevo sapere da te in che rapporto stanno i due libri. Parte di una sorta di progetto comune che potrebbe essere diventare anche una vera e propria trilogia dedicata al tema del lavoro sfruttato. Non c'è una continuità dal punto di vista della lettura, cioè uno può leggersi prima 108 metri e poi leggersi dopo Amianto. Come dicevo anche prima, c'è una sorta di progresso, almeno fino adesso, perché in Amianto racconto la condizione della vecchia working class. In 108 metri racconto una scheggia, perché chiaramente è molto ampia, anche se Dio non è scomparsa, la classe operaia esiste ancora, solo si è trasformata, lavora più nei servizi o nella ristorazione che nell'industria pesante. Però assistiamo appunto, e anche qui mi ricollego al libro di Fana, alla presenza di operai della ristorazione, operai, cioè le commesse spesso fanno mai lavori che possono essere assolutamente equiparati a quelli dei facchini della logistica, ad esempio, almeno per quanto riguarda il loro inquadramento. E quindi sto cercando, diciamo, di mappare certi percorsi della classe operaia che esiste e che però non viene raccontata, oppure viene raccontata in maniera molto paternalistica, con discendenza. dice che gli operai non esistono più, peccato che poi ne muoiono tre ogni giorno. Certo, bisognerebbe certo. un po' mettersi d'accordo, perché non esistono, oppure come fanno a morire tre al giorno se non esistono più. Alberto, facciamo un altro passo indietro. Come è cominciata la tua esperienza letteraria e che riferimenti avevi dal punto di vista stilistico, ma anche per quanto riguarda il contenuto? Sì, allora io ho iniziato appunto lavorando da piani bassi, come piani bassi in editoria in genere significa fare le traduzioni, sì. Ecco. Oppure in alternativa andare a fare i banchetti, montare gli stand quando ci sono gli eventi. E io ho fatto il traduttore, lavoro domestico, quindi che ha una sua componente forte di sfruttamento, me lo racconta anche Angela Davis in un suo recente saggio tradotto, un saggio recentemente tradotto in italiano. E, diciamo che non sono stato di quelli che hanno fatto il botto tipo il diciamo con esordio giovanile, cioè io ero in Inghilterra a lavorare come sguattero quando stavo scrivendo il mio primo libro, ci ho messo anni per pubblicarlo e ho sempre pubblicato con fatica. Anche questo libro uscito per la terza che ha avuto anni e anni di revisione di scrittura. Come riferimenti letterari stilistici ho cercato di fare, di seguire un percorso che in Italia non ha una grande non è diciamo granché praticato, è quello della narrativa working class inglese, sì. E in Inghilterra invece dagli anni 60 in avanti, ti direi da Alan Sillitoe fino a Anthony Cartwright, passando anche in fondo attraverso certe opere di V. Welsh, ha una sua continuità molto interessante di scrittura. Ecco, in Italia non si tende a fare granché working class novels, e soprattutto non si fanno scrivere da workers, tendono a essere scritte più da intellettuali empatici, come erano il caso della letteratura industriale italiana degli anni 60, in cui veniva privilegiato l'aspetto in qualche maniera patetico, l'alienazione, la sofferenza, il dramma di questi operai. A me interessava raccontare invece l'umorismo sfrontato, il cinismo a volte, la sfrontatezza e il vitalismo degli sfruttati. E il risultato infatti sono libri che in qualche maniera alternano pagine tragiche a altre profondamente comiche. Certo. E questo è un debito che ho con la tradizione sia la narrativa che cinematografica inglese, penso appunto all'opera di Ken Loach, di cui in qualche maniera cerco quasi di fare una traduzione letteraria, se vogliamo, nei miei libri. E dove comunque la dimensione emozionale viene fuori in maniera portentosa. Al red reading, insomma, questo uscirà fuori in maniera abbastanza evidente. Sì, io cerco proprio di lavorare così, lavoro sulle emozioni, ma non per, ma anche per far ovviamente pensare, però l'idea è quella di darti un colpo fegato, uno al cuore, cioè certo. Di far incazzare, piangere, anche commuovere, far venire lucciconi o troppo la gola, ma poi anche di colpo dare una risata liberatoria. Sì. E questa è una cosa che io leggo fortemente alla mia esperienza dell'Inghilterra. Ci immaginiamo questi workers inglesi come macigni duri come sassi, e invece in realtà nella mia esperienza ho incontrato anche persone con una forte dimensione emotiva, ho cercato di ritradurla in qualche maniera nelle esperienze poi della mia scrittura. Ecco. Senti, in questo la tua dimensione territoriale quanto ha influito? Beh, influisce perché diciamo io sono cresciuto a cavallo delle province di Grosseto e Livorno, con un padre che si trasportista, quindi era uno sempre in giro per tutta l'Italia e parlava in una maniera strana perché era un livornese che assumeva sfumature settentrionali tipiche diciamo dei suoi compagni di lavoro e che aveva un forte umorismo di quella tradizione che va dalle Apuane alla Maremma, che sta diciamo è in qualche maniera a debiti analcoidi nella sì. Sua formulazione cinico, irriverente. Il livornese in qualche maniera ride anche di fronte alla morte, cioè se ne va un po' come un guitto che prende in giro anche la nera signora quando si presenta. E questa cosa ho cercato di restituirla nel libro, anche l'irriverenza proletaria che non fa sconti a nessuno, soprattutto ai quattrinai, sono quelli da cui dobbiamo guardarsi di più. Ecco, nei confronti del. Io anche veramente, come posso dire, no? Sono cresciuti negli anni 90, anni in cui la televisione ti insegnava a desiderare il quattrino e il quattrinaio, a voler essere come questa lumpen borghesia che ti raccontavano. Io sono cresciuto proprio con l'idea dell'irriverenza nei confronti del quattrinaio, quindi questa cinica. Questa assoluta mancanza di rispetto nei confronti di chi si presenta come appartenente a certi superiori l'ho dovuto trasferire assolutamente nella scrittura, ecco. Sì. Alberto, non è la prima volta che con Marta Fana presentate i vostri lavori insieme. Ecco, come è nato e come si sta sviluppando questo binomio? Ma ecco, Marta leggeva i miei libri e io leggevo i suoi articoli prima che scrivesse il suo libro e poi quando lei ha iniziato a lavorare al Non è lavoro e sfruttamento mi ha chiesto, sono stato uno di quelli che hanno fatto da cavia, cioè praticamente me lo sono letto in anteprima e l'ho trovato folgorante, folgorante anche perché in qualche maniera cioè, percepivo che il suo libro fosse in qualche maniera, come posso dire, gemello del mio, nel senso che da una prospettiva subalterna, working class, cercava di attaccare al fianco, di demolire tutta una serie di supposizioni sul tema del lavoro, che erano le stesse contro cui io mi battevo con il mio lavoro narrativo. In questo senso penso che Non è lavoro e sfruttamento e i miei libri, diciamo, si lavorino in sincronia per aggredire tutta una serie di retoriche tossiche che negli ultimi anni sono state molto diffuse intorno al tema del lavoro, quello dei giovani che non vogliono lavorare, dei vecchi che non vogliono andarsene dalle scatole ma continuano a star coi piedi dentro al lavoro e non si fanno pensionare, tutta una serie di quelle dei cervelli in fuga e così via, di quelle degli immigrati che ci rubano il lavoro, tutta una serie di balle giornalistiche diffusissime sui social, in televisione, contro le quali bisognava dar battaglia. Ecco, Marta lo sa fare molto bene con i numeri, io cerco di farlo di più con le emozioni, ma sinceramente anche nel suo libro ci sono degli spunti narrativi molto, molto forti, non è un saggio, come posso dire, chiuso e confinato nel genere accademico. È in realtà un testo che ha tratti un pamphlet, che ha anche spunti narrativi molto interessanti, ecco. E quindi in qualche maniera ci siamo fatti spalla, ecco. Alberto, in chiusura ci lasci anche dei riferimenti web per seguire 108 metri, ma anche la tua attività più in generale? Sì, adesso sostanzialmente non saprei bene che cosa dirti perché chiaramente sono presente nei social, ci sono delle recensioni sul libro che sono apparse, alcune molto interessanti, c'è la pagina le riassume la pagina web sul sito di La Terza dove sono indicate le recensioni, ricordo una recensione molto bella di Marco Ambra su lavoro culturale, Alessandro Robecchi l'ha recensito su tutti i libri della stampa, le recensioni sono arrivate da Repubblica, un po' stanno arrivando, insomma. Bene. E, ecco, più che sul web, la cosa bella sarebbe venirci a sentire di persona, Certo. direttamente allo scoop, così che ne parliamo guardandoci nelle palle dell'occhio, ecco. Allora ricordiamo l'appuntamento con 108 metri e con Non è lavoro e sfruttamento, Alberto Prunetti e Marta Fana a Scoop a Roma il prossimo 10 maggio. Alberto, è stato un piacere, un abbraccio e a risentirci presto.